La lettera non c'entra niente col fatto che noi non vogliamo giocare. E a questo punto è venuto fuori non la pandemia, ma il pandemonio. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il mio auspicio assolutamente è quello anche del presidente Malagò, cioè che il 13 giugno sia la data giusta. A fine giugno si comincia. Abbiamo perso 3 mesi, non per capriccio. Ci mettiamo d'accordo con l'UEFA, favorevole anche iniziare, però sempre in sicurezza. C'è ancora il tempo per iniziare, però facciamolo con il cervello. Una grande dose di individualismo, anche lì vedi nei protocolli, no? Qualcuno ha voluto fare il furbo, no? E gioca col pallone, io ho le prove. È difficile anche mettere insieme le parti, cioè nel senso che io ho partecipato alle ultime 2 riunioni della Lega con tutti i presidenti, amministratori, ecco, delegati, e c'è un'idea generale di ripartire. Poi questa idea va trasferita alla Federcalcio, che la trasferisce al governo. E se questo tavolo fosse composto dalle 3 componenti sarebbe molto più facile. Qualcosa non è andata bene, ma all'interno del mondo del calcio, nel senso che la FIGC e la Lega si sono confrontate e evidentemente non erano allineate su questa adesione al protocollo. L'autoisolamento non l'abbiamo proposta noi, né il Ministero né il CTS. È stata una proposta avanzata a me dal presidente D'Alfino e dalla FIGC, credo quasi ormai un mese fa. Ci sono tante cose che non vengono considerate, ad esempio la salute mentale dei giocatori. Quando si parla di ritiro, dopo aver fatto 60 giorni di lockdown nelle proprie case, mettere gruppi di 25-30 persone in ritiro per un altro mese e mezzo, 2 mesi, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quello provocherà ulteriori infortuni e ulteriori problemi. Dobbiamo giocare ogni 2 giorni, dovremmo andare in ritiro e praticamente questi calciatori per 3 mesi rimangono in quarantena permanente, impossibile da applicare, no? Problemi? Confusione? Cosa succede? Buon pomeriggio a tutti, Lorenzo Nespoli oggi in assistenza con Claudia Schiattone in redazione, Filippo Auregi, Gianmarco Ferronati in regia, squadra molto larga, come sempre in questo periodo, c'è Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. E oggi chi voleva ascoltare cronache dai ritiri dovrà rimettersi in coda con la mascherina, ma va bene, aspettiamo, anche se pressapochismo normativo e organizzativo non credo siano più tollerabili. Saluto Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Eccomi, ciao Carlo, buon pomeriggio. Qui chiedo una cornice, un quadro, una cornice della situazione allo stato dell'arte e poi la cornice provvediamo noi. Allora, facciamo il quadro. C'è un solo club che è il Parma, che questa mattina ha avviato ritiro e allenamenti collettivi secondo il protocollo che era stato spedito giovedì dalla Federcalcio dopo aver integrato le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico e che poi era stato bocciato venerdì da tutte o quasi le società perché è considerato non applicabile. Il Parma fa così, tra l'altro in realtà quel protocollo non ha mai nemmeno ottenuto l'ok definitivo del Comitato Tecnico Scientifico e dunque teoricamente non esiste. Gli altri invece sono rimasti fermi alla formula di settimana scorsa, quella degli allenamenti individuali. Il governo aveva detto sabato sera a conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte che comunque da oggi ci sarebbe stata la possibilità degli allenamenti di squadra un po' più flessibili per tutti gli sport, quindi non solo per il calcio. Però ieri sera si è scoperto che il Comitato Tecnico Scientifico non ha ancora materialmente approvato le linee guida, le norme, e quindi in realtà non esiste nemmeno quel protocollo. Tutto ciò potrebbe accadere nelle prossime ore, così come entro 2 o 3 giorni la Federcalcio e la Lega Serie A si attendono che arrivi l'ok del nuovo protocollo, che nel frattempo è stato mandato alla Federcalcio perché sia mandato al governo, perché lo mandi al comitato tecnico scientifico, quello con tre correzioni, poi magari ne parliamo, ma che insomma cancella i ritiri e gestisce in un qualche modo per le prossime due settimane l'eventuale positività di un calciatore. C'è poi un'ultima notazione: la Serie A lavora per ripartire sabato 13 giugno, ma tecnicamente parlando, pur essendoci una condivisione di massima da parte anche del governo, almeno all'apparenza, sempre ieri sera si è scoperto che nel DPCM firmato dal Premier Conte le manifestazioni sportive sono vietate fino alle ore 24 del 14 giugno e quindi tecnicamente non esiste la possibilità che la Serie A cominci nel weekend di cui ha parlato anche il ministro Spadafora, per intenderci. Il tutto mentre la Bundesliga si è già messa alle spalle un weekend di partite e la Spagna, che non è certamente più avanti di noi nell'uscita dalla fase d'emergenza, da oggi fa allenare i suoi club a gruppi di 10 calciatori e dove, come a Madrid e Barcellona, ci sono condizioni sanitarie che sono considerate ancora abbastanza critiche, il governo ha conferito la delega alla Liga di poter far allenare tutti i club di quelle zone esattamente come le altre squadre e secondo il presidente della Liga Tebas il campionato potrebbe ripartire il 12 giugno. Chiudo pochi minuti fa, la Scozia invece ha deciso di fermarsi e il Celtic è stato dichiarato campione di Scozia anche se mancavano i playoff per la nona volta consecutiva. Ecco, questo è il quadro. Sui tempi viene da interrogarsi. Integro la notizia che arriva dalla Spagna con Tebas che ha ringraziato il governo per questa deroga e ha aggiunto poi quando inizieremo giocheremo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Calcio d'inizio fissato tra le 18 e le 20:30, sabato e domenica tra le 19:30 e le 23 nelle zone più calde del paese. Pierluigi Pardo, dicevamo, la strada sembra ancora lunga, no, ad ascoltare Giovanni Capuano, cioè i passaggi prima dell'inizio almeno degli allenamenti sembra lunghissima. La strada è lunga sicuramente, la tensione, la prudenza in una vicenda come questa deve essere una compagna di viaggio, però insomma credo che si vada in una direzione che è una direzione di riprovarci, che è quello che ieri sera sentivo Maldini, abbiamo sentito il suo scritto. Sono d'accordo al 100%, insomma, ho usato le stesse parole che usiamo da tempo: non bisogna riuscirci a tutti i costi, bisogna provarci perché la vita va avanti. E quindi, siccome questo contagio è un contagio che cambia con una velocità clamorosa, insomma, quello che saremo noi fra un mese non lo sappiamo. No, certo. Auguriamo intanto fra un mese di essere in una situazione molto migliore di quella di oggi. Piero, prova a richiamarti, che spero la situazione della linea sia migliore di questa. Invece, 800240024 per intervenire, il numero verde, WhatsApp vocali 349-238-6666. Poi parliamo anche della Bundesliga, perché sono curioso attraverso questi contatti di sentire la vostra opinione, le vostre sensazioni. Intanto saluto e ringrazio, abbiamo citato ampiamente il Parma che oggi è in ritiro, e saluto e ringrazio Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma. Buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Buongiorno, senta, qui Giovanni Capuano, che è collegato, ci ha fatto il quadro della situazione allo stato dell'arte. L'Inter e Napoli si lamentano per non aver trovato posto in hotel, eccetera. Collecchio invece è la sede del Parma, che si è già radunato ed è pronto a ricominciare a lavorare. E questo, questo corrisponde a verità. Sì. Sì, eravamo pronti e abbiamo preferito fare quest'iter. Poi dopo vedremo se usciranno nuovi comunicati, nuove idee. Come devo dire, perché non si capisce da un giorno all'altro. Non ci prepariamo per un protocollo, poi sembra che il protocollo però non sia stato accettato, non è stato ratificato, c'è un po' di confusione. Per cui la data del 18 maggio, il protocollo non so se era stato ratificato o no, noi siamo adeguati a quel protocollo, penso abbiamo fatto il massimo per rispettarlo tutto e nel rispetto di chi ha lavorato dietro le quinte è giusto iniziare come avevamo deciso. Voi siete organizzati in questo modo a colleghi, avete le stanze per singole per tutti i giocatori, giusto? Poi c'è lo staff che è ospitato in un albergo che la società si è messa No, allora un po' di staff è anche qui, sì. C'era gente che vota attorno, fisioterapista, in un albergo che è a 100 metri da qui. Abbiamo già un albergo che, dove c'è un piano solo per noi e un ingresso e un'uscita solo per noi. E dove c'è a fare un po' di security, come si può chiamare, e una ditta esterna che lavora anche per noi. Sì, sì. Anche portierato qui a Collecchio. Si tratta di lavorare secondo modalità diverse, magari non ideali, però nel lasciare la palla a Giovanni e per Luigi Pardo per altre domande, la differenza mi sembra che sia tra quelli che si sono dati da fare per farsi trovare pronti, ma questo vale in generale, secondo me, e quelli invece che sono rimasti a casa a, sì, posso, a lamentarsi. Sì, dica. Posso... Come no? No, io non ho fatto... Noi Parma non abbiamo fatto la rincorsa a nessuno, noi... Non è che abbiamo guardato gli altri cosa stessero facendo, noi abbiamo pensato a noi e come penso dovevano fare gli altri. E qui non penso che qualcuno possa pensare che noi siamo stati più bravi o volevamo dimostrare qualcosa. Noi abbiamo rispettato l'iter e siamo andati avanti. Poi non pensavamo che tre giorni fa quel protocollo non andava bene a nessuno. Mi dispiace di questa cosa, perché se non andava bene a nessuno, che poteva non andare bene a nessuno, perché tanto del ritiro dopo tre mesi in casa, dopo due mesi in casa, che ritiro, poi c'è delle squadre che se fanno il ritiro adesso con le coppe andranno il ritiro subito dopo e tutto, e già se ne poteva parlare prima, a me quello mi piace. Sì, sì, a tutti noi. Invece, no, invece di sentire ogni volta discorsi, no, invece di sentire discorsi nelle riunioni che non hanno né testa né coda, per cui mi dispiace di quello. Perciò noi eravamo pronti e abbiamo continuato il 18 maggio a fare quello che eravamo pronti. Sì, tutto direttore, chiaro. Ma come avete fatto con i giocatori? Perché insomma noi abbiamo sentito, abbiamo saputo, abbiamo capito che molti giocatori il ritiro non lo vogliono. Invece par di capire che a Parma in qualche modo il ritiro sia cominciato. Poi vediamo che cosa succede, perché davvero fra qualche ora o qualche giorno, un paio di giorni, potrebbero tornare tutti a casa sulla base di un nuovo protocollo. Però sì, la notizia è che giusto. Questa mattina sono arrivati e sono entrati. Come li avete convinti? Ma non li abbiamo convinti, non certo fare un ritiro dove nessuno vuole, non l'avrei fatto neanche io, a questo punto non era neanche obbligatorio. E sono dei professionisti, i giocatori del Parma, forse siamo bravi pure a sceglierli a livello di comportamento, però non hanno fatto storie. Ma io non voglio dire che le altre persone, i miei non hanno fatto storie, io posso parlare dei miei, e non so se gli altri hanno fatto storie o... Non c'è la possibilità di fare davvero il ritiro, perché io penso, come mi sono informato, c'è delle squadre anche blasonate che hanno delle camere che fare 15 giorni di ritiro non è il massimo, e siccome adesso stiamo parlando anche, è a favore questo discorso di tutte le altre squadre, stiamo parlando anche di un approccio al, se Dio vuole, all'inizio del campionato, non tanto atletico, che quello ci dovrebbe essere sempre, ci dovrà essere sempre, ma anche mentale. Sì, e mettere dei ragazzi, uno staff, dei fisioterapisti in delle camere che ci possono dormire massimo un giorno ogni 15 giorni, e non è il massimo. No, no, certo, però Pierluigi, ne parlavamo venerdì, no? Si tratta di un approccio professionale e professionistico. Hai ragione quando dici che in questa vicenda c'è chi... dà la sensazione di crederci di più e chi dà la sensazione di crederci di meno. Questo vale per le istituzioni, anche noi abbiamo stigmatizzato in alcuni momenti alcuni messaggi poco chiari. Credo che anche a livello di mondo del calcio italiano non ci sia una compattezza al 100%, nel senso che c'è chi è più motivato e chi è meno motivato, ma qualcuno l'ha detto anche apertamente, però non ci possiamo nascondere dietro un dito, perché sennò poi... Io faccio il direttore sportivo, però sono un cittadino e tutto. E se mio padre va al lavoro o mio zio va al lavoro, e il calcio è un lavoro. Sì, sì, se i risultati si ottengono giocando, e qualcuno che non vuole giocare lo dicesse e non viene a giocare. Perfetto. Poi non prendi i soldi, no. Anche lei ha avuto la mia stessa sensazione. Scusatemi, io ho giocato una partita finta, mi hanno fatto giocare. Parma Spal. È una partita finta. perché quando tra 10 anni dirò cosa è successo per lo spogliatoio dalle 12 alle 12:30, va bene? E non mi sembra giusto. Può anche farlo nei prossimi 10 minuti, dubito. Se vuole. No, perché purtroppo poi dopo lo sappiamo. Io è meglio che faccio il direttore sportivo, se no poi dopo... Io mi hanno fatto giocare e perdere una partita finta. Il signor Petagna, che lo rispetto come giocatore, adesso come uomo già lo rispettavo, ha detto che è stato un brutto allenamento. Però queste frasi le vedo poco in giro. È stato un brutto, se non ci fosse stato quel rigore, una partita da 0-0. Ma non tanto questa scusa del pubblico, non del pubblico. Il pubblico manca a tutti. Manchiamo noi al pubblico e loro a noi. Sempre. Anche durante gli allenamenti. Però era una partita che finta. Finta. Sì. Certo, perché non si può arrivare dalle 12 alle 12:30, quando la squadra si è preparata da 2 giorni a fare colazione, pranzo alle 9 e tutto, a decidere di non giocare. E non solo per le istituzioni del calcio, va bene? Perché sennò sempre è la politica e cose. E qualcuno pure che non voleva che si giocasse quella partita. Per altre ragioni che ancora a oggi ci sfuggono. Vabbè, e a chi dica quello che è successo in quelle ore è stato ricostruito. Allora, c'era qualcuno che non voleva che si giocasse la partita, giusto? Io non sto dicendo che avesse torto, va bene? Però... siccome già non avevamo giocato le altre, pure col Torino, che eravamo capitati lo stesso, ci sono stati 15 giorni. E cosa fanno? Si mandano i messaggi a mezz'ora dalla partita. Ma io li ammazzo a tutti, per dire. Perché? Figurate. Secondo me a qualcuno fischiano le orecchie, carissimi. Lo sa chi li sta fischiando le orecchie, lo sa. Ripeto, io sapere, non ho certezze nella vita, figuriamoci su questa questione così delicata, però sulle modalità di quello stop alla partita, veramente quella fu un teatro dell'assurdo. Quella mattinata è stato un teatro dell'assurdo. Scusate se dopo vi ascolto. No, il punto del mio discorso è alle 12:30, mentre scendiamo in campo, perché si vede su Sky che scendiamo in campo e ci fanno tornare indietro, giusto? È successo questo. Dopo 2 mesi, giusto, tutti pronti che dobbiamo andare in ritiro il 18 maggio, 2 giorni prima non si fa più ritiro. Allora non è cambiato niente, sono stati 2 mesi di stallo. Sì, ma la sensazione... ma chi è che lavora nell'ombra dietro le spalle? Ecco, appunto, perché se vi riunite in Lega... No, io non lo so, io parlo per il Parma. So che il Parma è il 18, noi eravamo pronti e siamo pronti. Per rispetto pure alla gente che non si vede in televisione, non è Fagiano, non è D'Aversa, non è tutto, però il team manager, gli operai, i giardinieri, quelli delle pulizie, tutte le ditte che sono venute a pulire, a disinfettare dall'inizio, io è giusto, e la squadra ha capito che andavamo, che siamo andati a sentire. Sì, il fatto è che poi vi riunite in Lega e esce un bel documento dove dice tutti sono d'accordo nel riprendere il campionato, poi però non sembra che sia così, poi però anche oggi... Dopo un po' non ci vado, non sono neanche uditore, per cui io faccio il mio, e già mi arrabbio facendo il mio, figuriamoci che prima si dice sì e poi no. Noi eravamo pronti, la mia società era pronta e ha dimostrato che nonostante tante peripezie dal fallimento di 5 anni fa, si è fatta ritrovare bene. No, anche oggi poi si dice, ad esempio leggo le dichiarazioni che arrivano dall'Udinese, dice impossibile ricominciare comunque il 13 giugno perché i rischi di infortuni aumentano, e guarda, 16 infortunati dopo le partite in Germania. Io credo che il rischio di infortuni vada ad aumentare ogni giorno in più che si perde senza allenarsi per un giocatore professionista. Io parlo per me, è normale che noi oggi iniziamo e ci saranno gli infortuni. Qualcuno si è fatto male pure quando c'è stato l'allenamento individuale, perché era fermo da tanto. Ci sta adesso, ci sta quando inizia un ritiro estivo normale, e questa non è una situazione che abbiamo cercato o ce l'aspettavamo, è una situazione particolare. Tra l'altro, se posso, faccio notare che è vero, non è una situazione ottimale due mesi di stop in casa, poi gli allenamenti individuali, e se si riparte il 13 o anche se si riparte il 20 è chiaro che dal punto di vista atletico non sarà il massimo, però io sorrido perché poi noi ci siamo abituati negli ultimi anni a raccontare soprattutto i grandi club che dopo una settimana, 10 giorni, massimo 2 settimane di preparazione prendono, salgono sull'aereo e cominciano a giocare a calcio a qualunque temperatura e a qualunque latitudine, e quindi insomma diciamo le cose come stanno. Se c'è qualcuno che non vuole ripartire è giusto che lo dica, se è la sua opinione, però mettere in mezzo mille argomentazioni io credo che sia un'operazione a perdere. Se avete fatto una valutazione, un piano economico per capire l'impatto che avrebbe sulla vostra società un eventuale stop? Sì, certo che l'abbiamo fatto. Noi siamo stati, per Luigi, pure in quel senso, è stato poco messo in risalto che la mia squadra ha rinunciato già un mese sia che il campionato fosse continuato o che si fermasse. E questo è stato pure perché noi abbiamo fatto i conti giusti, quelli che ci sono delle perdite, perché tanto usciremo tutte con le ossa rotte. L'abbiamo fatto, l'abbiamo valutato, stiamo parlando con la squadra, ne abbiamo parlato, stanno firmando le rinunce. Non è semplice tutto questo, eh. È un lavoro che è stato fatto, ma ci ha aiutato anche, e mi ha aiutato anche la serietà della società che è stata fino a questo momento. Apro e chiusa la parentesi, sento pure che ad agosto fa caldo o a luglio fa caldo, sì. Giusto? Io a dicembre fa freddo, anche, io facevo il direttore sportivo, del Trapani, vabbè? Andate a vedere quando io facevo il direttore sportivo in Serie B del Trapani, e le partite alle 3, il 23 agosto o a settembre, che a Trapani ci sono 42 gradi, ce le facevano giocare a Trapani, vabbè? Per cui la sera si giocava a Novara, sì, e poi l'inverno di nuovo la sera alle 20:30 a Novara, sospesa per nebbia, sì, e qualcosa d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, sì, più o meno così. No, però lo stesso, no, l'inverno potevano farlo pure da noi che faceva caldo, è chiaro, la sera a Novara sospese per nebbia a Novara, per Celli, e sono le cose nostre, però per dire il caldo. E fa a Trapani come fa le altre squadre. Sicuro. No, ma voglio chiedere ancora questo, poi per quanto mi riguarda, poi se ovviamente Giovanni, io ho una curiosità già che ci siamo. Ecco, la mia è le aggiungiamo tutte. La mia è cosa ha provato nel guardare la ripresa della Bundesliga, in risposta anche a chi dice ma è tutto finto. Posso fare a Gigi Mazzullo. Sì? La farei a voi la domanda, così almeno vi ascoltano infatti meglio. Infatti noi poi ne ascoltano parliamo. Meglio, e sono stati più avanti, sono più organizzati, non lo so. Sono semplicemente tedeschi, e in questo c'è in questo momento un complimento estremo. Noi siamo italiani forti, quando vogliamo siamo forti. Ma direttore, noi decideremo il 12 a mezzanotte che si riparte il 13. Ma se ascolto che ancora faccio delle interviste, io speriamo che non finisca tutto in tribunale, le recessioni, salvezze, vittorie e tutto, e invece sento sempre che se non dovesse ricominciare o se dovesse c'è sempre in tribunale, dobbiamo andare, e poi dopo no? È inevitabile. Sì, è inevitabile, però non lo so se è inevitabile, se vogliamo bene al gioco del calcio. In Francia bloccano il campionato, si cristallizza la classifica, e ahimè, poteva capitare a me, attenzione, poi uno mi può dire Fagiano fa il fenomeno perché c'ha quei punti, no, perché purtroppo è così, mi darebbe fastidio al posto degli altri, però succede, può succedere. Ma guardando le partite in questo fine settimana, quelle della Bundesliga, lei che livello ha trovato? Io ho trovato un livello accettabile, diciamo da amichevole pre-inizio di campionato, ma non in senso negativo, nel senso che è la giusta fotografia di club che si allenavano da 5-6 settimane. E l'avete detto prima, non sarà la stessa cosa, ma deve diventare, perché non è questa cosa passa da un mese, due. Io me lo auguro per tutta la popolazione mondiale. Però dovremmo convivere con le mascherine, andare al bar, bere il caffè fuori e fare tante situazioni. I bambini devono studiare da casa, gente che lavora marito e moglie, hanno più problemi di questi, perché non sanno a chi lasciare i figli piccoli, per dire, no? Dobbiamo stare attenti. Sì, sì, poi devono anche dargli da mangiare marito e moglie, guardi. Questa guarda è una precisazione importante, cioè a scanso di equivoci, questa roba non piace a nessuno. Cioè, io lo taglio sì, vuoto, sono... è un colpo al cuore, però siccome l'alternativa è che fermiamo la stagione e poi un mese dopo cominciano i ritiri, e no, no, non funziona no, così. No, quindi ma... ribadisco, o decidiamo che fino a quando non c'è la faccia della terra, nemmeno un positivo, non si gioca a pallone, e allora però rischiamo di arrivare al 2022-2023, speriamo prima, ma non sappiamo, o se no una convivenza col virus per ogni settore della vita va pensata e va studiata. Poi se gli scienziati ci dicono che il rischio è troppo alto, amen, però voglio dire, non provarci nemmeno mi sembra veramente un arrendersi a... Beh, adesso Pierre, abbiamo le prove da sabato, ne abbiamo le prove, no? Poi quindi... è brutta quella roba lì, a me senza tifosi mi fa schifo, è proprio, sono molto chiaro, non è che, secondo me il gioco è stato anche dignitoso, ci sono stati degli sprazzi belli, divertenti, in cui il calcio poi con la sua allegria, con la sua bellezza riesce a ricompensare. È chiaro che il contorno è... Vabbè, ma non è calcio, è ovvio che non è calcio. Però si dice piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma sì, soprattutto perché il rischio... cioè, l'alternativa non c'è, purtroppo non è che c'è un'alternativa. Non è che ci fermiamo un mese e poi a agosto ci sono gli stadi pieni. Se io potessi decidere, se ci fosse questa cosa, venisse il comitato scientifico a dirci, guardate, se voi vi fermate adesso, ad agosto, comincia il campionato regolare, con i tifosi, con le curve, con le tribune, con tutto quello che conosciamo, ma io non avrei un dubbio, dichiarerei conclusa questa stagione e comincerei con la prossima. Purtroppo non è così, purtroppo bisogna convivere col virus. Anche perché poi se è dichiarato chiusa questa stagione, poi ci sono in ballo diritti televisivi e tutte queste altre cose, poi ne riparliamo sempre nella sede di qui sopra, cioè i tribunali. Grazie direttore, a presto. Ci sentiamo presto. Che buonasera a teniamoci tutti. In contatto. Allora, noi non è che, Carlo, non è che dobbiamo stare a spaccare l'atomo. Ma insomma, oggi milioni di persone lavorano. Dal 3 giugno, auspicabilmente, come dicono i ministri, quelli importanti, ci sarà anche la ripresa della mobilità tra una regione e l'altra. Semplicemente il 13 bisogna mettere in condizione un settore di ricominciare. Il come l'abbiamo visto, ce l'hanno fatto vedere i tedeschi, e a questo punto sarebbe sufficiente andare in fotocopia. Non è che bisogna inventare qualcosa da premi Nobel. Dai primi di giugno ci dicono anche che si potrà andare in vacanza, poi le distanze tra gli ombrelloni ne parliamo, quelle tra i calciatori invece devono essere quelle normali. Allora fermiamoci per la borsa, poi abbiamo Luca da Varese e Donato da Vicenza che sono in linea, li ascoltiamo e parliamo con loro certamente, avremo Antonio Di Pollina per parlare del campionato tedesco, di quello che abbiamo visto in TV, insomma subito dopo la borsa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Convocati. Endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Fußball. Finalmente di nuovo Bundesliga, finalmente di nuovo il calcio. Tocco per Tolkanasan che va direttamente per Erling Haaland. Erling Haaland. La macchina non sbaglia mai. Parte Lewandowski ed è il 40esimo gol stagionale, 26esimo in Bundesliga. Gomiti a tutti e soprattutto Bayern in vantaggio. Tiro forte e Thuram la spinge dentro, tutto molto facile. Bello, oltre che vedere i gol, anche sentire le voci dei telecronisti, spero di presto di risentire quella di Pardo, oltre che tutti i giorni a tutti i convocati, anche in telecronaca. Luca, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie dell'attesa. Hai visto la Bundesliga? Sì, ho visto quanto possibile e ho capito quanto vale il calcio, nel senso che visto quanti sono stati le visualizzazioni eccetera, è l'ennesima riprova di quanto vale il calcio, sì, per la popolazione, mettiamola così. E ho visto però anche quel brutto spettacolo delle mascherine in panchina e assolutamente non le mascherine in campo, direi un po' di confusione anche lì sul protocollo eccetera. Mi immagino se l'avessimo fatto noi italiani quali sarebbero state le critiche. Ho visto anche l'allenatore di non mi ricordo più che squadra che non ha potuto andare in panchina perché è andato a comprarsi il dentifricio. Sì, dell'Augsburg, ne abbiamo parlato. Augsburg. Ecco, sì. In Italia sarebbe veramente una corsa alla denuncia dell'avversario, credo, temo. No, ma si è autodenunciato lui, l'allenatore. Però posso dire una cosa all'amico di Varese. Questa mattina io ho fatto un giro nel parco dietro casa. In Italia funziona che le mascherine te le devi tenere su e sono, ad esempio, in Lombardia, io sono in Lombardia. Obbligatorie se stai al di fuori della tua abitazione. Dopodiché, se tu stai correndo, hai il permesso nel momento in cui corri di non indossarle. Cioè, non è che hanno fatto casino i tedeschi sul protocollo. No, in campo non si tengono. Il paradosso è solo apparente, perché è chiaro che in panchina, se stai fermo, stai seduto, te la tieni perché è buona norma tenere la mascherina. Poi in campo, quelli che sono in campo, non è che puoi pensare che giochino con la mascherina. Fastidio, per esempio, i medici avevano giustamente la mascherina, no? Sì. I medici quando c'era qualche infortunio. Insomma, ci sono delle cose surreali, anche delle cose, ribadisco, sono abbastanza tristi dello spettacolo, ma in linea con quello che è il momento che stiamo vivendo. Certo. Poi... Ma sai, c'è anche un po' di simbolismo, credo, come quello delle esultanze, ma tra poco ne parliamo perché c'è in linea anche il professor Di Pollina, che saluto. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Insieme ascoltiamo Donato da Vicenza, che saluto pure. Buongiorno Donato. Ciao. Ragazzi, ciao. Allora, intanto, premessa, vi apprezzo tutti e tre a tal punto che farei fatica a far di voi anche a filare una classifica di chi apprezzo di più fra di voi. Adesso prima cosa, veramente farei fatica, veramente. Allora, detto ciò, allora il mio discorso non è ispirato a discorsi campanilistici, perché da milanista quale sono, se il campionato parte o riparte non è che cambi granché, evidentemente, sì. Senza obiettivi, per cui evidentemente, ecco. Non è neanche dovuto a discorsi politici, so benissimo che voi non affrontate mai discorsi politici, per cui non è neanche il mio discorso, non parte e non è ispirato a discorsi politici. Della verità sono due mesi che facciamo discorsi politici. Esattamente. Qui non è ispirato neanche a un attacco per forza necessariamente all'attuale governo. Però non mi pare la sensazione che voi, tutto sommato tutti e tre voi, in particolare Pierluigi, secondo me, teniate in questa situazione una linea un po' troppo, per i miei gusti, per la mia considerazione, una linea un po' troppo pacata nei confronti di una nazione oggi, l'Italia, che in base anche alle notizie che arrivano oggi dalla Spagna, l'abbiamo appena sentito anche poi dalla borsa che è stato prolungato per un mese anche in Spagna, poi lo stato d'emergenza, e nonostante ciò hai dato tu all'inizio le notizie del calcio spagnolo, ecco, voi teniate una situazione come giornalisti, una situazione un po' troppo tranquilla nei confronti dell'attuale situazione italiana, dove effettivamente anche su questo lato mi pare che siamo veramente il fanalino di coda dell'Europa. Ecco, non è che pretendo che facciate una crociata, evidentemente considerando non è queste crociate, ci mancherebbe altro. Io pensavo fosse chiaro, Donato. Risponde. No, ma io penso che noi tre la pensiamo in maniera abbastanza simile. Poi io sono il democristiano della compagnia, nel senso che ho più dubbi, ma proprio in generale ho più dubbi, ho più paura, ho più incertezze. Uno fa il discorso della Germania, potrebbe fare anche il discorso della Francia. In Francia, anche lì con polemiche, però hanno preso una decisione completamente diversa. Quindi coltivo da sempre un po' il seme del dubbio, però insomma, secondo me siamo tutti e tre sulla stessa linea. Poi Capuano magari è più fedain del ripartire con entusiasmo, il più scatenato nel denunciare magari alcune convenienze di alcuni che fanno finta di voler ripartire, non vogliono ripartire o cose simili. Io credo che sia un dovere, non un diritto, dei dirigenti di qualsiasi attività umana cercare sempre di ipotizzare una ripartenza, anche in una situazione di emergenza come questa. Sì, certo. E da questo punto di vista io non ho dubbi. Poi ti ripeto, se fra un mese avremo un virus che non ci darà la possibilità o una serie di contagiati, ci arrenderemo tutti insieme con la coscienza pulita di aver dato seguito alle parole, anche certi fatti, e non aver fatto l'opposto, insomma. Antonio, ti risaluto. Eccolo. Senti, i dati, ti è piaciuta la Bundesliga? Ti sono piaciute le partite di sabato? A me è piaciuto il calcio che si giocava dentro. Bravo, anche a me. Nel senso che non ho il feticcio degli abbracci, che ci tengo particolarmente, non me ne può importare di meno. Detto tra di noi, anzi, la cosa di gomito mi diverte, si ammicca quasi invece di fare cose sconsigliate. Cose molto simboliche anche, cioè esatto, è diventato quasi una nuova liturgia, una nuova simbologia che a me non dispiace. Il tocco dei piedi degli arbitri è cult, ragazzi, il tocco dei piedi degli arbitri. No, però guarda, io posso dire, io l'ho presa come mangiare una portata preparata da un grande chef nei piatti di carta e con le posate di plastica, che non io è male. Me la mangio. Anche, ma io pure, così, soprattutto dopo che ho digiunato per un sacco di tempo, anche se non c'è il grande chef, guarda, ti dico. No, però leggevo da molte parti, non, anche sul tuo giornale, su Repubblica, peraltro, Gabriele Romagnoli, che pure è un collega tra quelli più letti da parte mia, che diceva, ma sì, però è tutta una cosa un po' così, un po' posticcia, un po' finta, un po' sì, fa gol, però non c'è quella anche quella il caffè sensazione. Che ho bevuto sabato io per la prima volta al bancone era un po' posticcio, che ho dovuto stare a distanza, togliere la mascherina, rimettere subito la mascherina, igienizzarmi le mani, e però se volevo bere il caffè quello era. Bravo, appunto, questo è il senso. No, ma i dati d'ascolto sono stati abnormi, no? Perché il 300, leggo sempre da Repubblica i dati, con un aumento del 320% degli spettatori che hanno guardato il calcio tedesco in Germania rispetto al solito. In Italia c'è stato, correggimi se sbaglio Antonio, sono stati numeri vicini a quelli della nostra Serie A, no? Sì, c'è stato quello, e testimonia della voglia che comunque c'era, nonché della curiosità assolutamente naturale in questo un caso. Un po' voyeuristica, sì. Sì, a me fa più impressione quello che ha rilevato Rummenigge, cioè che ha detto ci stanno guardando in miliardi. È bravo. Per una partita normale, sì, è vero, sì, è il mondo, è il pianeta che c'ha voglia di rivedere calcio, anche perché rivedendo calcio abbiamo sempre la speranza che il calcio si porti appresso altre normalità, cose. Ci vorrà tempo e così via, però io l'ho presa bene, cioè mi sono arrivati subito dei messaggi dopo 5 minuti di amici e colleghi, e uno di questi diceva è bellissimo. Ma certo. Ora non esageriamo, probabilmente esageravo un po', ecco, sì, però dava il senso. Beh, ma non è da sottovalutare questo sentimento, comunque no, è chiaro, è un passatempo, è il nostro divertimento, è quello che vogliamo, però è anche simbolico di una vita che in qualche modo prova a riprendere dopo quello che abbiamo vissuto. Allora facciamo così, traffico, poi torniamo a chiacchierare. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. E con grande voglia di sentire anche le informazioni sul traffico la domenica, che ci raccontano del traffico per le partite in prossimità degli stadi, ovviamente credo condivisa. Volevo approfondire quanto ha detto Antonio sulle dichiarazioni di Rummenigge, che sono state ripetute peraltro dopo le partite, le avevamo già citate la settimana scorsa in chiusura di settimana. La Germania, ragazzi, riparto da Pierluigi, si è costruita una grande opportunità anche economica di conquistare, dovremmo chiamare Barisoni, però o Beninazzo, okay, però per conquistare anche porzioni di mercato che prima non aveva, quindi sì che si stanno costruendo un'occasione. Non c'è dubbio, ma questo vale per tutte le turbolenze, per tutti i settori economici. Quando c'è una situazione di drammatico shock come questa, chi riesce a reagire meglio e in maniera più tempestiva si può andare a prendere un vantaggio competitivo. È chiaro che noi l'altro giorno, insomma, in tutto il mondo abbiamo seguito, non so quanti avrebbero seguito Augsburg, Wolfsburg, diciamo, ecco, pochi. Sì. Quindi questa cosa che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, moltiplicata per le centinaia di milioni di appassionati di calcio che ci sono nel mondo, ovviamente crea un valore e una visibilità in termini mediatici. Sicuramente Rummenigge fa bene a festeggiare, perché è stata sicuramente una mossa azzeccata. Poi certo, come tutte le cose, c'è un margine di rischio. Noi oggi parliamo, è lunedì, parliamo dopo questi dati, poi vediamo che succede, e mi auguro nulla per quanto riguarda i contagi, le positività, gli infortuni dei calciatori della Bundesliga. E ovviamente ogni attività umana si porta dietro delle opportunità, si porta dietro anche dei rischi. Quello che secondo me è impressionante, ma ne parlavamo anche con Janek l'altro giorno, della gestione tedesca di questa vicenda, è il livello di almeno apparente compattezza. Sì. Di apparente compattezza, le poche polemiche, il fatto però è dovuto al fatto che è un paese che funziona. Il tema un po' demagogico dei tamponi è un tema che però in Italia ha un suo senso, perché se poi ci sono delle persone che hanno avuto o che hanno i sintomi e non hanno accesso al tampone, allora poi ci può stare che quelli si incazzi perché certo. Cristiano Ronaldo o Lukaku ne possa fare uno ogni due giorni, ma non c'è niente di male che Cristiano Ronaldo e Lukaku possano fare il tampone ogni due giorni, soprattutto perché glieli paga la società. Il problema è sempre quello di prima, cioè il problema è che poi la persona che sta male dovrebbe poter fare il tampone. Sicuro. Per cui in un sistema che funziona è anche meno probabile arrivare alla polemica populista, no? Il problema è che il tampone non diventi un pretesto demagogico o un simbolismo, certo. Giovanni? Sì, ma assolutamente. Poi tornando alla Bundesliga, l'altra cosa che mi ha fatto un po' sorridere, poi in questo forse i tedeschi hanno esagerato, ma chiedo cosa ne pensa Antonio Di Pollina. Cioè, io ho visto queste interviste fatte dagli spalti con un'asta lunga 6-7 metri, altro che distanziamento sociale. Poi in questo ogni tanto, ecco, canna da pesca, ogni tanto in questo magari i tedeschi esagerano, però il problema è che il segnale che hanno lanciato dal punto di vista visivo è che si può. Poi oggi vedo che sui giornali c'è la caccia a trovare lo scatto del bacio, un po' come in maniera voyeuristica nelle scorse settimane c'è chi è andato in giro con gli zoom per pescare la visuale schiacciata delle folle sui navigli o nei parchi, però poi alla fine quello che esce da sabato e da domenica è che giocare a calcio in questo modo si può, esiste a questo punto un precedente, e tra l'altro i numeri di cui parlava prima Di Pollina, io aggiungo anche quello che è successo sui social, ti dicono che alla gente interessa. Come no? Perché i social sono pieni di gente che ti accusa di insensibilità perché tu pensi e dici e scrivi e sostieni che il campionato deve ripartire. E dopodiché sabato pomeriggio alle 15 la Bundesliga in varie declinazioni occupava le prime 5 voci in tendenza in Italia di Twitter. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ma non c'è dubbio. Antonio? Non c'è dubbio. Sì, è assolutamente quello. Adesso mi divertiva molto il discorso delle esagerazioni tedesche, però succede anche che il calcio durante una partita le cose si vedano, perché in realtà quelle aste lunghissime le usano anche al TG1, se guardate le interviste per strada si vedono questi microfoni che ballano davanti lunghissimi e si intuisce che dietro c'è un'asta molto lunga con cose, cioè. Quindi il calcio rende anche abbastanza evidente tutto questo. Poi, non so, il voyeurismo. Io quando uno dei giocatori a un certo punto che evidentemente ha avuto è diventato padre, dopo il gol, ho visto che si ciucciava il pollice, ho fatto un salto sulla sedia. Sì, dire, e ho fatto gran gol. Esatto, sì. Cioè, hai toccato il pallone, le cose, non hai significato assolutamente niente. Allora, possiamo anche scherzarci un po', il problema è che siamo sul filo del rasoio tutti quanti, in tutto quanto, e il calcio fa la sua parte, e alla fine magari fra un anno saremo lì a commentare che da certe cose che sono successe quella volta in Germania quando è ripartito il calcio, sì, abbiamo capito delle cose, ha portato bene, è andata in un certo modo, è andata nell'altro, ed è diventata comunque una cosa importante, per cui è anche abbastanza comprensibile che siamo tutti lì curiosi, no, quantomeno, non dico morbosi ma anche un po' morbosi, però ti dico, poi ti saluto, due aspetti. quando Rummenigge venerdì diceva ci guarderanno miliardi di persone, qualcuno rispondeva con il solito sorrisetto, il messaggino ironico, ah sì, miliardi di persone, ma chi vuoi che se ne fotta? Poi in realtà i dati stanno dicendo questo, e quindi questo vuol dire che il calcio tedesco, adesso, quando ci sarà da trattare magari i diritti internazionali, avrà una fiche in più da giocarsi. E poi la storia del bacio a sto ragazzo hanno tirato le orecchie, facciamo così, perché ha mandato un messaggio sbagliato. Io credo che ci sia stato anche grande senso di responsabilità nel modo di comportarsi dei protagonisti in campo. Sì, sono decisamente d'accordo e insisto, tra un po' di tempo faremo tutte le valutazioni precise su quanto può essere stato importante quello che è successo. A me personalmente, a chi mi dice ma era tutto un po' così, dico guarda caso ha ricominciato Haaland, ha segnato il più forte su una grandissima azione, poi ne ha fatte anche altre spettacolari, quindi venite a dirmi che non è vero. Guarda caso poi è successo che i più forti hanno vinto, che hanno giocato bene e che il fuoriclasse giovane ha fatto lo show. Il calcio, quando ci si mette a andare queste coincidenze, diciamo così, si impegna davvero bene. Un ritorno con il gol di Haaland in quel modo, del più forte di tutto, probabilmente neanche uno scrittore lo sarebbe immaginato in quel modo. Quindi il calcio sa anche fare queste cose. Proviamo a crederci ancora un po', fino a prova contraria. Grazie Antonio, no, mi viene da sorridere. Grazie a voi. Ciao Antonio, ciao. Di Polina, fosse stato in Italia, avesse segnato, che non so, il primo gol Cristiano Ronaldo, tutti a dire ecco, l'hanno fatto apposta per fare lo spottone del campionato italiano. No, però al di là di quello, comunque da questo punto di vista la Bundesliga ha vinto, ma anche, ripeto, come comportamenti e atteggiamenti, no ragazzi? Voi che ne pensate? Sì, ma io credo anche nel... adesso al di là di che abbiamo anche un po' scherzato, però io credo che sia davvero difficile dopo la ripartenza della Bundesliga un po' per tutto il sistema. Ora io lo so che mezz'ora fa la Scozia ha deciso di chiudere, però è inutile che facciamo finta di non capire. Quelli che contano soprattutto in Europa sono i cinque campionati top. Uno si è fermato, la Francia, e in tanti contestano il fatto di aver deciso così presto, e un altro è partito e ci ha fatto vedere fisicamente come si può fare. Io capisco le perplessità dei calciatori, io capisco tutto, ma credo diventi più difficile da ieri, da sabato pomeriggio, anche per un calciatore dire che ha paura di giocare perché non c'è la massima sicurezza. Diventa veramente difficile, difficile sostenerlo. È chiaro che tutto andrà contestualizzato dentro un sistema paese con una curva di pandemia che nelle prossime due settimane deve continuare a comportarsi bene, come sta facendo negli ultimi 20 giorni, ma una volta scavallato quest'ultimo termine, cioè controllare che dopo la ripartenza di oggi i dati non si impennano, sarà semplicemente che devono tornare tutti a lavorare, compresi i calciatori e tutto quello che ci ruota intorno. Sarà difficile immaginare il contrario. Ma poi senso di responsabilità, ripeto, così come immagine dei giocatori tedeschi, a me è piaciuto. Pier, ti lascio chiusura 30 secondi. Sì, senso di responsabilità, siamo lontanissimi da ciò che ci piace. Siamo lontanissimi, almeno secondo me, da quello che è bello, dal calcio come lo conosciamo noi. Questo è indiscutibile. È un male necessario, secondo me, se si riesce a trovare delle condizioni minime, molto più che minime, insomma, di ragionevole sicurezza in linea con gli altri campionati, secondo me è una medicina da ingoiare. Guarda, e magari troveremo anche poi dei motivi per trovare dell'interesse. Mangiamo il panino adesso aspettando Oldani, il ritorno di Oldani. Mettiamoli in questi termini. Ragazzi, grazie Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, oltre a Filippo Aureggi, a Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.